è che faccio vita scura dentro me. Ma poi perché? Scusa se paghi con me. Non vedo amore, do solo affetto e rancore a te, a me, a tutta la gente che capisce che freddo dentro agli arti, io vorrei parlarti anche solo in quattro quarti. Ma guardarti me lo tengo per me. I tuoi motivi per scansarti me li tengo per me. È che si congela nella notte, se va bene faccio botte con droghe mignotte che ogni sera ammiccano più forte. Mettono alle corde, poi al mattino ridono delle mie ossa rotte. E ogni giorno si diverte, passa lento senza dare niente. Inutile pregare un dio se c'è, sta fermo inerte con braccia conserte. Se siamo un'opera sua è un povero perdente. Io potrei farti volare per ore, portarti in alto per scaldarti col calore del sole. Emozionati ma mi tengono a terra parole, diavoli stanchi che si nutrono nel mio valore e poi lo sputano. Vorrei tenerti fuori, vorrei mandarti lontana dalla mia realtà malsana e far soffrire un'altra figlia di puttana. Potrei, ma senza ciò che sei io non esisterei. È che faccio vita scura dentro me, ma poi perché? Scusa se paghi per me. Che mi vuoi dare? Non sono adatto a sognare, sono bagnato di un male integrale, intenso e viscerale. E cazzo sì che ti potrei conquistare con la mia luce, ti potresti abbagliare. Adesso fermati un metro, non fare il passo finale e dimmi tu che vita vuoi fare. Qui non siamo in un reame, coi cavalli, coi castelli. Qui il più onesto fa la fame, qui decidono i coltelli. Belli dentro con le cicatrici in faccia, pezzi da cento con i tagli sulle braccia. E fetide puttane che detestano chi fa la fame. Mode americane, buone solo per scopare. Non si può gridare, qui non è permesso piangere ed urlare. Fisso mi allungo, se ce la fai, se non ti raggiungo, con pensieri che pungono, spunto più buio di quella che sei. Ridimmi il tuo nome, il tuo segno e poi vai. Sollevati da ciò che macabro e indegno e fatti proteggere dal tuo disegno. E scordami qui, ma ti prego, adesso lasciami un segno.